Com'è profondo il mare, cantava nel 1977 Lucio Dalla. Nella storia che racconta invece Gianni Lannes, il mare è tutt'altro che profondo. A 247 metri dalla superficie, infatti, giace il relitto di un motopesca, il pugliese Francesco Padre, e i corpi di 4 uomini e di un cane. Sono l'equipaggio, composto da 5 persone, una venne recuperata, e la mascotte dell'imbarcazione. Lì sotto ci sono dal 1994, quando colarono a picco e nessuno andò mai a prenderli perché alla collettività sarebbe costato troppo. Eppure, negli anni, recuperi ne sono stati effettuati a profondità ben superiori. Una spiegazione del motivo per cui, secondo l'autore, il Francesco Padre si trova ancora laddove giace da 15 anni, si ritrova già nel titolo del libro con cui questa rubrica, a parole, in breve, esordisce. Si chiama Nato, colpito, affondato ed è uscito in questi giorni per i tipi delle edizioni La Meridiana. Firma la presentazione un giornalista che di storie insabbiate se ne intende, Andrea Purgatori, che scrive: «C'è un filo rosso e oscuro che attraversa la storia di questo paese, un filo al quale restano appesi come fantasmi i misteri che avvelenano la memoria e impediscono di definirci una democrazia matura, ragionevole, compiuta». Dalla morte di Salvatore Giuliano alla rendition di Abu Omar, passando attraverso la stagione dei golpe, delle stragi, del sequestro Moro, di Ustica, della P2, del braccio di ferro o della trattativa segreta con Cosa Nostra, dal dopoguerra ad oggi non c'è decennio che non si sia consumato tra veleni e sospetti, non c'è affare sporco che non abbia prodotto conseguenze nefaste per la vita politica e sociale di questo paese. Questo, infatti, è il paese della giustizia negata, delle verità inafferrabili, dei segreti di Stato. E il segreto di Stato di cui parla Purgatori è proprio il nodo intorno al quale si avvolge questa vicenda. Una vicenda che, ufficialmente, altro non sarebbe che un trasporto di esplosivo andato male. Uno o più membri dell'equipaggio avrebbero imbarcato materiale esplodente che poi è saltato per aria, uccidendo chi si trovava a bordo. Ma le perizie sono state smentite e rimane un nodo da sciogliere. L'ipotesi avanzata in questo libro, infatti, contempla uno scenario di guerra. Dopo essere stato mitragliato, il Francesco Padre affondò perché colpito dal fuoco amico di imbarcazioni della NATO. Vero o falso? Ma la risposta, quella definitiva, è nascosta proprio dietro quell'espressione, segreto di Stato. E non potrebbe essere dunque più adatto il brano che ha accompagnato queste parole, Drunk Again, di Tequila Mockingbird, ascoltabile e scaricabile dal sito gemendo.com.